Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. A voi tutti, cari ascoltatori, il saluto più affettuoso da parte di Gesi. Antonio ci raggiungerà in studio più tardi, ma intanto ci sono io sola, vi faccio un po' di compagnia. Anche perché fra poco arriverà il primo ospite della serata, il dottor Antonio Basso. E poi, dopo Antonio Basso, spero che arrivi Antonio, anche il nostro Antonio, e che arriverà anche il tabaro, il signor Tiziano Spigariol. Bene. Intanto diamo subito inizio al programma con la prima canzone, che è cantata da un coro, Le piccole Dolomiti, ed è molto bella, secondo il mio punto di vista, Il testamento del capitano. Ascoltiamo insieme. Il capitano della compagnia Ed eccoci di nuovo in studio, ci ha raggiunto il dottor Antonio Basso. Buonasera, buonasera. E bentornato. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. Ecco, sì. Allora, la volta scorsa ci ha parlato di tante belle cose, mi sono piaciute veramente queste. Intanto il fatto che Treviso è il giardino di era il giardino di Venezia. E poi anche mi ha colpito così che Boccaccio ha scritto una novella qui per Treviso. Sì, quella di Martellino. Sì. Sì, e poi anche un'altra mi diceva lei, no? Che aveva scritto. Sì, ce n'è un'altra nella quale si fa parola a proposito della marca cortese, della definizione che viene data nel rapporto tra gli amanti, che viene detto danza trevigiana. Quindi ecco, Boccaccio sì. Era molto informato sulle consuetudini della nostra gente. Ma a quell'epoca. E come conosceva Treviso? Perché sì, allora non c'erano tante vie di comunicazione, eppure lui, sì, per scrivere una novella su Treviso vuol dire che conosceva abbastanza bene. Probabilmente c'era stato, chissà. Eh sì, perché insomma in qualche modo si arrivava o coi cavalli o con... Oppure le notizie si diffondevano e arrivavano anche a Firenze, arrivavano quando erano così clamorose, quando erano questo gusto del raccontarle non è solo di adesso, è sempre stato. Certo, sì, in maniera... Solo che oggi purtroppo si diffondono notizie molto tristi, molto purtroppo, squallide. Purtroppo sì, le disgrazie che costituiscono l'argomento principale delle cronache, sia della carta stampata sia della televisione. Non c'è un qualcosa che dice vabbè l'ascolto, mi rilasso, mi faccio anche qualche sorriso? No, guasta pasti, perché nell'ora proprio dei pasti ci somministrano, ci accompagnano con queste tristezze. Sì. Dunque allora abbiamo parlato, lei ci ha parlato del periodo medioevale, no? Sì, avevamo fatto così aperta una finestra su un aspetto della vita trevigiana nell'epoca del libero comune, però mi pare di aver anche accennato alle mire che Venezia poteva avere su Treviso. Le mire, dato la chiamava il giardino. Sì, non è solamente una questione di fare un complimento a Treviso, ma è che Venezia aveva l'occhio, soprattutto l'occhio economico, puntato nel retroterra, pur essendo una città di mare, e quindi tutte le sue attenzioni e i suoi interessi erano proiettati attraverso l'Adriatico verso tutto il Mediterraneo, particolarmente il Mediterraneo, il Medio Oriente. Pensiamo allo stile delle cupole di San Marco e quello di Santa Sofia di Costantinopoli, questo per dire quanto sia debitore, quanto sia debitrice la terra veneta nei confronti del Medio Oriente, ma anche dell'Asia Minore. Per esempio pensiamo che il primo patrono di Treviso, San Teonisto, era vescovo nell'Asia Minore e da là è venuto fino alla laguna, e di qui è risalito per il Cile fino a Musestre, dove ha subito il martirio, e poi le sue spoglie sono state trasportate sempre attraverso il fiume nella città qui di Treviso, dove sono state accolte in quel ambiente che poi è diventata la chiesa dedicata a San Teonisto, a questo primo patrono della nostra città, che poi è stato soppiantato da San Liberale. Ma inizialmente si tendeva a dare come patrono della diocesi la figura di un martire, mentre San Liberale non lo era un martire, non lo è stato. Ma torniamo a questo discorso del fiume che abbiamo fatto, che è un, mi pare di averlo detto già nel passato, ricordare come la via d'acqua fosse la strada preferenziale delle comunicazioni, non solo quelle che provenivano da lontano, ma anche per le comunicazioni interne. Le strade erano quelle che erano, ma attraverso i fiumi era possibile trasportare merci anche molto pesanti, ed era poi la via preferenziale. Il grande canale dell'antica Europa è stato il Reno, che ha collegato le Alpi con i mari, con l'Atlantico. E voglio rifarmi proprio a questo, perché la necessità di trasportare le merci per via d'acqua, una volta arrivate a Venezia, avevano un grosso problema, perché se dovevano essere trasbordate dall'imbarcazione alla terra, bisognava che ci fossero delle rive accoglienti, solide, non fangose, paludose, come erano una volta le rive che nel tempo sono state rinsaldate, creando le fondamenta, eccetera, eccetera. Ma se poi avessero dovuto inoltrarsi queste merci verso l'interno del territorio, dovevano essere caricate su dei carri. Bisognava quindi che la zona intorno alla laguna fosse una zona consistente, fosse, e altrimenti i carri rischiavano di impantanarsi. Motivo per cui è sempre stato cercato, ma ancora in epoca romana e probabilmente anche prima, di utilizzare le vie d'acqua. Il successo che ebbe Aquileia, che una volta era dotata di un porto fluviale, che nel tempo è andato perduto perché si è impoverita la falda acque, ma il successo di Aquileia era soprattutto dovuto al fatto che era una postazione all'interno del mare, collegata al mare attraverso questa via d'acqua. E il Mediterraneo, il punto più settentrionale del Mediterraneo, rivolto verso il centro dell'Europa, è il Golfo di Venezia. Però, ripeto, le sue rive sono molto basse, quindi erano rive fangose, paludose, e quindi si cercava queste vie d'acqua per penetrare il più possibile verso il centro del territorio. Aquileia, dicevo, è stata una città molto fiorente che ha avuto una storia molto splendida finché c'è stata questa via d'acqua. Con il decadere di Aquileia si è fatto strada un'altra via di comunicazione, che è stato il Sile. E quindi ecco perché si ha la penetrazione attraverso il Sile di merci, ma anche di persone che arrivano. Il discorso che abbiamo fatto di Sant'Eunisto è dovuto a questa facilità, per cui Treviso era veramente un punto, uno snodo dal quale poi si poteva procedere attraverso le vie di terra e quindi entrare e attraversare anche le Alpi, ove fosse stato necessario, per diffondersi in Europa. Naturalmente questi viaggiatori correvano, che erano i mercanti, i primi mercanti che importavano le merci dall'Oriente e cercavano di diffonderle in tutta Europa, i mercanti avevano tutto il loro capitale, tutte le loro ricchezze con sé, e quindi erano personaggi piuttosto decisi nel difendere il loro patrimonio anche con le armi a portata di mano. Ma quando arrivavano qui a Treviso attraverso il Sile, poi dovevano fare tutto un traffico, perché dovevano scaricare, dopo caricare sui carri? Certamente il porto fluviale di Treviso, sì, che era a quell'epoca ancora fuori della città perché si trovava nell'attuale piazza Garibaldi, mm-hmm, pensiamo che il confine della città era segnato dal Cagnan, e quindi grosso modo il Ponte Dante rappresentava il punto più orientale della città. L'attuale piazza Garibaldi ha portato la denominazione alle barche proprio perché lì c'era questo porto fluviale. Sì. Ma dicevo che questi mercanti avevano le loro residenze in città, fuori dalla città, perché facevano comodo sì all'economia cittadina che ci fossero in città, ma gli abitanti delle città non preferivano che non abitassero dentro alla città. Perché? Perché dicevo, erano personaggi anche dalla mano molto lesta nell'intervenire a difendere il loro patrimonio e la loro vita, e quindi li fecero abitare nelle zone, nelle vie di accesso alla cinta muraria, strade che si chiamavano borghi, e quindi questo ceto di mercanti che abitava nei borghi venne chiamato borghesi o borghesia, la categoria di questi personaggi, che era la categoria, la classe sociale emergente in quest'epoca. Però ogni parola... Borgo, ad esempio, uno dice, ma perché borgo? Deriva da borghesi. No, è borghese che deriva da borgo. Ho capito, sì. Perché sì. Borghi era, poi nella toponomastica la parola borgo si è un po' modificata in sobborgo per indicare una zona immediatamente periferica rispetto alla città, ma ancora dentro alla città portano il nome di Borgo Cavour, sì, Borgo difatti. Mazzini, sì, sì. Borgo Cavalli, è vero. Queste strade che afferivano, che conducevano al confine orientale della città, che era, per quanto riguarda per esempio la parte orientale, era costituito dal canale delle Convertite. Ma torniamo ai mercanti, questi personaggi, diciamo, dalla mano molto facile nel ricorrere alle armi, tant'è che un gesto di saluto, di incontro con le persone era quello di mostrare la mano disarmata, e quindi la tiravano fuori dal mantello, dalla tunica, da quello che aveva, e la ostendevano e quindi la porgevano per la stretta di mano, che era un segno, guarda che io sono qui disarmato, non perché, sono venuto... perché erano armati, come... sì, per erano armati, sì, certo, certo. E si difendevano così, sì. Se non che a un certo momento è invalso, anche grazie all'azione della Chiesa, degli ordini predicatori come i domenicani, ma anche gli altri, la opportunità di rivolgersi per la protezione delle loro vite e delle loro sostanze a un santo patrono. E allora dove si cercavano i patroni? I patroni si cercavano nelle persone, tra i santi, che avevano avuto un'esperienza simile a quella dei mercanti, cioè che avevano, nel caso dei mercanti che viaggiavano su fiume, cercare come patrono un santo che avesse subito il martirio navigando nei fiumi. E questo, il santo che venne individuato, fu Sant'Orsola. Questo personaggio molto interessante, che ha dato origine alla sua storia a un celebre ciclo di affreschi che è conservato nel museo di Santa Caterina adesso, ma che era nato nella chiesa di Santa Margherita, che era proprio sul Sile, praticamente nella riviera c'era la chiesa di Santa Margherita, e a commissionare quel in grande, perché la superficie è vastissima di questo ciclo di affreschi, deve essere stato anche un'opera economicamente costosa, sì. E chi poteva sostenerla se non questi mercanti, che appunto dedicarono, finanziarono quest'opera appunto nella chiesa che più prospettava alla zona del porto. Poi ho trovato anche che nella chiesa di Santa Maria Maggiore, cioè sull'altra riva del Sile, c'era un altare dedicato a Sant'Orsola. Quindi effettivamente questa devozione nei confronti di questa santa protettrice dei mercanti sta a indicare che di mercanti dovevano essercene tanti. Appunto, sì. Ecco quindi la ragione per cui Venezia mette l'occhio con grande interesse sulla città di Treviso. Sant'Orsola, credo che potremmo anche accennare alle storie di questa santa, che in parte è nella leggenda la sua storia, ma in parte deve aver avuto anche degli spunti storici per poterci costruire questa storia sopra. Sant'Orsola era la figlia del re di Bretagna. Siamo quindi nelle Fiandre, e il figlio del re d'Inghilterra aveva conosciuto la bellezza e le virtù di questa fanciulla bretone, e mandò i suoi ambasciatori al re di Bretagna per chiedere in sposa questa figlia. Lei acconsentì, però a condizione che il fidanzato si facesse cristiano, si facesse battezzare, e che assieme a lei e a, qui il numero è veramente discutibile, a 11.000 vergini si recassero in pellegrinaggio a Roma. Probabilmente erano 11, cioè il numero è stato letto male, perché probabilmente era appunto 11M, che vuol dire forse martiri, perché 11.000 dopo vedremo, non so che problemi ci sarebbero stati di trasferire, di far girare per l'Europa queste martiri. E allora il racconto della vita di Sant'Orsola prosegue con il battesimo di questo principe inglese e il loro viaggio verso Roma, e nel viaggio Sant'Orsola riceve l'annuncio che avrebbe subito il martirio. Lei si reca a Roma, viene ricevuta dal Papa, e anche il Papa viene informato da una visione di un angelo che ci sarebbe stato questo martirio, e lui decide di lasciare lasciare il trono papale, diciamo così, e unirsi a questi pellegrini per ritornare con essi. E navigando lungo il Reno a Colonia vengono assaliti dagli Unni e Sant'Orsola viene uccisa assieme al suo seguito e anche al Papa. E poi c'è la glorificazione nella scena finale di questo ciclo di affreschi di Sant'Orsola. Io ho cercato di individuare le rappresentazioni che ci sono fra le più antiche delle storie di Sant'Orsola, perché noi abbiamo qui a Treviso questo ciclo molto importante, sì, sì, che sì, è attribuito a Tommaso da Modena. Sì. A Venezia c'è il ciclo che è di Vittore Carpaccio, ma poi c'è tutto la diffusione e la presenza di questi cicli pittorici o rappresentazioni di Sant'Orsola è lungo il Reno, e quindi da Colonia, dalle Fiandre addirittura a Bruges, che sarebbe stata il percorso, la tappa terminale di questo viaggio, purtroppo non compiutosi, ma anche lì c'è addirittura un'opera del Memling, una cassa di legno dorata, nella quale sono rappresentate le storie di Sant'Orsola. Poi lungo il Reno e su fino alla Svizzera, perché il Reno, sì, ricordiamo, nasce nelle Alpi svizzere, ci sono queste rappresentazioni, e nel versante italiano le troviamo nell'Alta Val Venosta, perché da Treviso i trasporti probabilmente andavano per quella strada a raggiungere il corso del Reno al suo nascere, quando era navigabile, per poter il più possibile sfruttare appunto questo corso d'acqua. Comunque, ecco, quindi che la devozione a Sant'Orsola ci sta a indicare la presenza e l'attività dei mercanti, e quindi è un Treviso viene da questo ciclo inserita, non perché Sant'Orsola sia passata per Treviso, ma perché per Treviso passavano le strade, le vie di comunicazione che usavano i mercanti, i quali avevano bisogno della protezione di una santa, appunto Sant'Orsola, per la loro incolumità dei loro traffici, dei loro mercati. Quindi è diventata, sì, a parte il martirio che ha subito, ma è diventata una santa importante proprio perché proteggeva questi mercanti. Questi, sì, questi dopo mercanti. Successivamente nel Cinquecento, per l'opera soprattutto di Sant'Angela Merici, si sono costituiti gli ordini femminili delle Orsoline, che avevano di Sant'Orsola avevano colto soltanto l'aspetto di protettrice delle giovani, delle vergini, e quindi questo ordine soprattutto si curava dell'educazione delle fanciulle, trascurando quello che era stata l'originaria devozione dovuta a questa santa. Ecco perché dicevo prima, sì, sì, dobbiamo ricorrere per una identificazione tra le storie di Sant'Orsola e l'attività dei mercanti, per poter ricorrere alle immagini più antiche, quelle, sì, sì, sì, che hanno preceduto la vicenda delle Orsoline e di Sant'Angela Merici. Comunque è molto interessante, perché d'altra parte è bello conoscere la storia del passato, se si vuole in qualche modo apprezzare, sì, quello che è venuto dopo. Ormai adesso non si apprezza più niente, ma insomma non importa. Ecco, santo, le opere di Tommaso da Modena viene più o meno fatta risalire intorno alla metà del 300, sì, quella del Carpaccio a Venezia è più tarda. Anche qui non è che Sant'Orsola sia passata per Venezia, per Treviso, perché ci dovesse essere questa devozione, doveva essersi una motivazione molto forte. Certo. E quindi i traffici commerciali. Ecco allora che Venezia mette l'occhio su Treviso, perché dice: questo può diventare il mio trampolino per i commerci, per i verso, certo, il centro dell'Europa. Tutta questa merce che arrivava dall'Oriente, che soprattutto con le crociate i navigli veneziani hanno riportato

Come posso dire, Tiziano? Poeta, imprenditore, poeta, buonasera a tutti. Ecco. Amiche e amici, scusate per il ritardo, e qui le incombenze sono molteplici, però anche se trafelato, eccomi qua. Ecco, e chi e hai portato? Il nostro Tiziano Spigariol. Buonasera, esatto, a tutti. L'uomo del Tiziano, tabarro. L'uomo del tabarro. Poeta, come dicevi tu. Poeta, imprenditore, molteplice. Mamma ci sono, mia. È una cosa straordinaria. L'uomo delle molte vite. Allora noi cediamo subito lo scettro a Tiziano. Tiziano che ultimamente sta facendo il socoaro. Cioè? Una delle sue tante attività, cioè faccio zoccoli, osse, sampei, tutte queste vecchie scarpe di un tempo per farle rivedere, perché no, per farle anche portare, per provare il passo a piede fermo e non ovviamente a piede piegato. Perfetto. Il piede fermo porta con sé il ginocchio piegato, scusate, e viceversa. Molti ridono, io le propongo come le Timberland del 3000 se ci lasceranno ancora qualche siepe, qualche bosco dove poter raccogliere questa preziosa legna, non solo da ardere ma anche per fare zoccoli, gaos e sampei. Mi introduco subito per fatto personale. Io ricordo che una volta, molti anni fa, in epoca contadina, si andava d'inverno a slitar drio i fossi con i gaosse e coi brocche, giusto? Certo, coi brocche, certo, ecco. Certo, molti non sanno che cosa sono le brocche, naturalmente. Beh, sono una forma di chiodo con testa arrotondata e zigrinata, abbastanza pesante, in modo da reggere ovviamente gli impatti con il ghiaccio che oggi non vediamo più perché i fossati sono stati tombinati e quindi insomma parte della nostra storia se n'è andata, ma queste scarpe lo possono ancora ricordare. E come si chiamano? Socui, gaiosse, sampei. Sampei sono lo zoccolo estivo, sì. Infatti, quello che si adoperava. Non il pescatore giapponese, non quello dei cartoni animati. Voi li chiamate sampei. A Mantova li chiamano supei. Ecco. Vedi che la radice è sempre quella. Sì. L'importante è che lo scopo, ecco, venga raggiunto. Sia lo stesso. Sì. Però adesso caldo. Forse troppo caldo, speriamo in qualche pioggia perché c'è tanta siccità, tutti abbiamo bisogno, la campagna lo richiede assolutamente, ma siamo primavera. La primavera si vede dappertutto, in ogni dove, direi, nelle sue emanazioni di terra, cioè a piede, e quindi con bruscandui, rosoine, sciopettini, radici de can, eccetera, e poi sulle piante da frutto in fiore. Scusa Tiziano, radici de can quali sono? Il tarassacco. Ah, quindi quelli gialli praticamente, i soffioni. Esatto, il fiore giallo che poi quando diciamo la pianta ha il fiore, beh, non si dovrebbe più raccogliere, perché la pianta ha già incominciato un processo di crescita eccessiva per quanto è... E non è più commestibile, diciamo. E non è più molto commestibile, difatti qualche piccolo dolore al ventre lo può causare. Ecco. Tutte le verdure sì, in questa stagione. Sì, avevo sentito che c'era questo, diciamo, occorre, anche se... Bisogna dire appunto che se le cose sono naturali non vuol dire che non possano far male, vedersi il ricino, diciamo, che certo, i cui semi sono anche... Una volta ti davano olio di ricino, sì, se facevi sì, il cattivo. Ma i semi sono addirittura tossici, se non ricordo addirittura. Male. Sì, sì, sì. Ma il fiore, questo fiore giallo meraviglioso del tarassacco, è da raccogliere comunque in questo periodo, perché nelle tavole dei contadini, ma io vi invito, cari amici, ad andare a passeggiare al mattino, a respirare aria pura e a trovare questi meravigliosi frutti selvatici della terra. Dicevo, il fiore del tarassacco misto alle margherite e a qualche viola, beh, sono i fiori che si dovrebbero trovare nelle case, sopra le tavole, sì, le credenze, sì, fiori naturali in questo momento, che esatto, darebbero naturali, tanta, sì, vita. Andate ogni mattina o tre volte alla settimana a farvi una bella passeggiata in campagna. Sarebbe, saggia decisione, sarebbe bello di mattina verso le sei, un'esortazione partire, condivisibile, giustamente. Comunque la si sente la primavera anche proprio dentro di noi oltre che fuori. Sì, una trasformazione. E a proposito in di primavera, una piccola poesia. Asto, bravo. Sentir e a staion che vien, come a vioia che nasce, come il bruscandolo che se fa vedar, come sciopetin che dall'erba sponta, come il toridar che me fa mover tutto, come a staion che mi son primavera. Oh, ah, che bella, piena di vita. Straordinaria. Una rinascita. Primavera? Scusa? No, se ne ha un'altra. Ah, beh, presumo no, di sì. No, ce l'ho nel volo. Nel volo? Il volo, nel volo. Parliamo perché, di volo, dai, perché che la bello. Primavera fa muovere e fa volare lo spirito. Allora vola. Vola. Nel cielo terso vola, vola in su pel monte vola, vola già giù dal dirupo vola, vola dalle mie mani vola, vola che tu sia falco o colomba, vola, vola che il tuo spirito si invola. Bella, sono piene di entusiasmo, di slancio, sì, vero? Di amore per la vita. D'amore, diciamo, per la vita, sì, sì, bisogna amare la di vita. Una anche visione, direi, contadina. Ecco. Io voglio fare un complimento, giustamente. Sì. Anche se qualche volta la vita sembrerebbe magari, ma insomma, non siamo gran più probabilmente attrezzati a sopportare le intemperie della vita come erano un tempo, sì, non molto lontano, ma che sembra, sì, però, sparito da però millenni. Adesso insomma, vabbè, io direi le emozioni, le emozioni, che, è proprio vero, che la natura nelle sue diverse stagionalità riesce ad infondere, ad offrire, esattamente. E quindi il mio invito ad andare a passeggiare, fatelo in primavera, ma fatelo in tutte le stagioni, potrete godere appieno anche d'inverno, è stupendo, questo fango, questa neve, queste cose, oltre che mettere alla prova la deambulazione, mette alla, sì, prova anche lo spirito, lo spirito, è vero, e riporta, perché no, a sogni e a voli che solo dentro di noi possiamo trovare, possiamo, sì, recuperare. Vere avventure, più vere. Quando ero più giovane mi piaceva tanto la nebbia, così sentirti avvolto nebbia, dalla nebbia. Sì. Ci sono. Ti pareva una di stupenda. Sì. La nebbia gli irti colli piovigilando. e qui mi fermano perché dicono che non è mia, no, ma sa, no, ad una certa età magari qualcosa mi posso dimenticare. Non è tua, appropriazioni debite. Però diciamo, è sempre, ecco, una bella poesia. No, sono, la poesia è una cosa straordinaria. Certo. Io penso che il poeta sia uno scultore di parole. E allo stesso tempo una stripper, hai presente quelli tipo il burlesque, roba del genere? Uno stripper dell'anima, oso questa analogia. Ma come sei istruito? No, è una questione, una sensazione e mia. E la terra è la nostra coppa di champagne, esattamente. Sogno o bisogno? In questa cima starò e braccia aperte terrò, il vento buono aspetterò. E che mi crescano le piume. Dopo così voli con le... Bene, adesso ci fermiamo per una canzone. Questa canzone è intitolata La signora di 30 anni fa ed è dedicata a un amico, a un caro amico, che è un nostro ascoltatore con la sua signora Bianca, e l'amico Francesco, che giovedì 29 ha compiuto gli anni. Augurissimi. Ecco, facciamo tanti auguri e appunto dedichiamo questa canzone che a lui piace tanto, La signora di 30 anni fa, questa volta cantata da Claudio Villa. Il cuore mio indiscreto pace ancor non si dà, sempre più sveglio e più inquieto, non si rassegna alla sua età. Oggi mi ha ricordato in gran segreto una signora di 30 anni fa. Nel 1919, vestita di voile e di chiffon, io v'ho incontrata, non ricordo dove, nel corso pure a un ballo cotillon. Ricordo gli occhi solamente, segnati un po' con la matita blu, poi vi giurai d'amarvi eternamente. Vi chiamavate, non ricordo più. La vita mia è perduta, se l'amore se ne va, oggi il mio cuore che non muta, che non si piega alla sua età, cerca la sua signora sconosciuta, la sua signora di 30 anni fa. Ricordo il primo bacio che v'ho dato, tremando di emozione e di passione, un bacio lieve, timido, posato, fra quei capelli corti alla garzone. Poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste, non ricordo più. Nel 1919 vi chiamavate forse gioventù. Bene, siamo di nuovo in studio. E visto e considerato che abbiamo salutato e fatto gli auguri al nostro Francesco, adesso facciamo un piccolo omaggio al nostro Emilio Gallina leggendo una sua poesia dalla siloge Questo resto di giorno. La poesia si intitola Meridiana. Solare andare di ore, alto nel muro lo stilo adombra al quadrante numeri, simboli, l'incedere silenzioso del tempo. Di qua il subito passato, oltre l'imminente futuro. Fuggevole ombra, il presente. Ecco, poesia sì. Breve, ma che intensa, ti fa capire proprio il passare del Decisamente tempo. Decisamente sì. Bene, allora al nostro Tiziano la parola. Diamo di nuovo Tiziano la parola. Bene. Ti è piaciuta, Tiziano, questa poesia? Allora, Emilio per me è un caro amico, ma è sempre un grande poeta dell'anima, uno scrittore intenso e direi di una squisita sensibilità come pochi ce ne sono. Bene, adesso noi proseguiamo con la nostra primavera, sentiamo che cosa ci porta. In campagna, in montagna. Un altro volo. Bene. Il mio volo. che il volo vostro, che il volo di tutti. Basta che sia un volo. Bene. È il volo mio, qui che mi prende e vago. E per n'importa dove, perché, tant'è. Il volo è mio, soltanto mio, e lo rivendico. Dove vorresti volare, Tiziano? Un'espressione di libertà. Dove vorresti volare? Ma dove vorrei volare? Su un bell'altro volo, ciliegio. Volo sulla quotidianità. Cioè, passo, per forza, alzarsi cose... dalle basse miserie nelle quali siamo immersi. Passo sopra le cose. Ecco. Non le trascuro, però. Importante. Le osservo. Questo, certo. E poi... faccio. Molto saggio. A me piace il primavera perché ci sono anche i piselli freschi che hanno un profumo particolare. Quelli odorosi, quindi. Sì, sì. Mi piace tantissimo. E poi fra poco ci saranno anche le gardenie, che sì, sono fiori profumatissimi. Ma a proposito di profumi, una delle cose alle quali non siamo più abituati, perché stiamo poco in campagna, perché siamo poco in campagna, perché non siamo più la campagna, è il profumo delicatissimo dell'olmo quando sboccia. Ah. Non me lo ricordo. Io credo ci siano pochi profumi così delicati. Parliamo di 3 giorni, 4, una settimana. Ah, proprio molto al massimo, limitato nel tempo, quindi. È limitato proprio nello sbocciare. Quando incomincia a schiudere e aprire le prime foglioline, beh, lì c'è un profumo così, ecco, meravigliosamente questo, gradevole. Diciamo che è intenso perché riempie l'aria, però è gradevolissimo. Straordinario, non io lo sapevo, non lo anche ricordo, no, non e lo l'olmo ricordo. Naturalmente è il Gaeraise Fonde. Esatto. E questa, come, e questa, è il Gaeraise Fonde l'olmo. E anche qui la natura fa vedere tutta la sua bellezza, perché l'olmo, che notoriamente è un albero maestoso, sì, forte, ha questa riserva, questa delicatezza di profumo quasi inverosimile per la sua apparenza. Esatto. Una notazione: olmo è anche il nome del figlio di Tiziano. Oh, complimenti. Per quello che dicevo, il Gaeraise Fonde olmo. Ah, ecco. Cos'è il Gaera? È il Gaeraise Fonde. Ah, alle radici, cioè, scusa, ma io tanto profonde, se parlate, ecco, se parlate in fretta non mi no, no, no, esatto. È il Gaeraise Fonde. Esattamente. Ah, ecco il perché. E allora, scherzando, siccome invece poi il nome è nato da tutta una serie di circostanze, ma di legami profondi, l'avrete capito, la terra, il territorio, eccetera, a quello che sono, ma anche a quello che mia moglie è e ha condiviso con me e continua a condividere in questa vita, e la ringrazio per questo. Scherzando, però, quando ci chiedono: ah, olmo, è strano, come mai? Beh, dico, tutti l'hanno chiamato Pino e noi abbiamo cambiato albero. Sì, sì. È vero, Pino solitario. Saggia decisione. Beh, dopo ci sono anche le ginestre, vero, che fioriscono in primavera? Sì, esatto. sì. Adesso stanno fiorendo, mm-hmm, ed è una cosa eccezionale. No, ma guarda, delle ginestre... Io faccio anche dei grandi bastoni. Ah sì? Perché la ginestra un tempo era utilizzata, ovviamente quando la pianta diventa robusta e poi va potata in un certo modo per favorire la crescita del legno, dei fusti, diciamo, in modo da poter fare dei bastoni. È un bastone molto antico, è un bastone signorile che veniva usato per vezzo quando cappello e bastone, sì, accompagnavano. Sì, i signori, anche giovani, avevano cappello e bastone. Sì, esatto. Adesso invece non usa più. adesso vanno in blue jeans i giovani. Invece abbiamo qualche poesia ulteriore di, sulla primavera. A proposito, diciamo, sì. A proposito di fare, prima dicevo poi io faccio. E questa potete ridere quando volete. Benissimo, noi ridiamo che fa bene al fegato. Far. Mi butto sassi. E ti? Beh, e mi. Mi scrivo poesie. Ah, eh sì. Sono cose come sì. sono sassi di altro tipo. Appunto. Belle, sono sagaci. Comunque, io penso che tante volte rifletto su i profumi della primavera e i profumi dell'autunno, che sono sempre profumi, però hanno un sapore totalmente diverso, ma sempre ti suscitano delle emozioni diverse, emozioni però sempre molto forti. Straordinarie. Sì, perché la primavera senti la rinascita e l'autunno, senti come un lento abbandono, un languore. Esatto. E sono certe che sono le fasi evidentemente dell'esistenza, ma anche le fasi dell'animo umano, non solo fasi fisiche, ma anche, come dire, fasi spirituali, direi. E a proposito, domani le viole potrebbero non avere più il loro profumo. Ancora una volta ti vorrei vedere per liberarmi da questa angoscia e convincermi che è finita. Oio, che triste. Molto triste. Ma potrebbe essere la dipartita di una stagione. Di una stagione, di un amore, di un percorso. Comunque quello che è naturale per i cicli della vita. Esattamente. Sì. Incominciano e finiscono, certo. Inevitabilmente. Sì. Sì. Noi dobbiamo renderci conto dell'assoluta nostra impotenza di fronte a governare questo meraviglioso miracolo, diciamo, o divenire continuo sì, del naturale. È proprio vero. È che nel corso della vita, fino a una certa età, non ci si pensa tanto a certe cose, insomma. È che poi quando si arriva a una certa età si comincia a pensare certo, a sì, bilanci e cose, specialmente di tipo. Quando magari hai qualcuno in famiglia che e allora ti queste fai sono dei, cose che danno, fanno pensare, fai dei bilanci volenti o non volenti, inevitabilmente anche questi sì. Però dai, noi adesso parliamo della primavera. Noi dobbiamo procedere naturalmente. Ecco, è una strada a senso unico anche questa, e quindi non abbiamo alternative. A me piace tanto sedermi, mi piacerebbe tanto avere un giardino, sedermi proprio in mezzo al giardino e stare tranquilla, specialmente nell'ora della siesta. Mi piace tanto questa brezza che ti sfiora, questo cinguettare è un momento di sospensione, sì. Diciamo di cosa, ecco. I merli adesso cantano, vero Tiziano? I merli hanno incominciato. Le rondini non ho ancora sentito. No, non sono ancora arrivate. Non sono ancora arrivate, sono prudenti. Ma come mai? Hanno paura che venga magari un'ondata di freddo? Esatto, perché questo caldo, difatti, mentre questo è un segno. Chi non conosce magari la natura lo chiama di intelligenza, io lo chiamo di sentire animale, perché chi è soggiogato, fra virgolette, nella natura dagli eventi atmosferici sono solitamente le piante che reagiscono immediatamente. È vero. E le piante seguono l'andamento. Adesso fa tanto caldo e quindi sboccia esplode tutto, eccetera, eccetera. Se dovesse venire un'ondata di frescura, si bloccano, avranno le gemme bruciate, cose del genere. Sarebbe peccato, però. Molto. Perché gli uccelli, che a mio dire, a mio avviso, sono vita superiore, non hanno creduto a questo miraggio antitempo della natura. e non sono ancora arrivati. Perché dici che sono superiori, cioè un essere superiore? Ma perché hanno una sensibilità, un sentire, ovviamente, per tutto quello che devono attraversare nella loro vita. Basti pensare che sono migratori e quindi provengono da migliaia e migliaia di chilometri, da territori diversi, e trovano di tutto nel loro cammino. Quindi, se non hanno una bussola più che attendibile, quindi l'istinto di sopravvivenza rischiano di perdersi anzitempo. È grandissimo in questi animali. Esatto. Quello che non può avere una pianta. Giustamente. Eppure dicono che le piante sono molto sensibili, anche sentono addirittura. Ha detto che piangono, ma non credo. Sì, ma alle volte sono come il gobbo. Il gobbo? Sì. Cioè? Si abbassano e aspettano la legnata. Poverete. Poi magari resistono. Esatto. Ma non possono fare diversamente. Sì, è la loro perché natura. Lì stanno. Ma una volta quanti alberi venivano abbattuti per far legna da ardere? Adesso mi pare un po' meno. La legna che scalda due volte. Quando la tagli quando la bruci. Comunque io quando vedo che abbattono un albero soffro veramente. Sai il bisognerebbe piantarne. C'è in via Trento Trieste, lo chiamano, mamma mia, dove c'è anche il sile, il fosso, cosa c'è? Lungo sile, sì. Mm-hmm. Ecco, lì ho molto visto tagliare degli alberi. Perché erano malati. Esigenze imperscrutabili, forse, ma non lo so. Invece l'usignolo canta d'estate, vero? Sì. Non è ancora arrivato. No, beh, ma penso neanche quello. Neanche in maggio non arriverà, penso che arriverà proprio col caldo. Ah, perché anche l'usignolo viene da lontano. Sì, abbiamo l'usignolo indiano, no, mi pare. No, ma, il merlo indiano. Ma di solito sta in gabbia qui da noi. Sì, io ho sentito parlare, sai, il merlo. Sì, Gracula mi pare che si chiami, sì. Come? La Gracula o merlo indiano. Sì. Comunque parlano, hanno la voce da uomo, è proprio. Sono quelle meraviglie della natura. Ecco, ma guarda che questa, pensarci bene, è una meraviglia, Decisamente. Le stranezze della natura sono anche quelle che noi chiamiamo. Se pensi che l'uomo fischia. Esatto. E loro parlano. È vero. Beh, io per esempio non so fischiare, sono una frana. Non riesco proprio a fischiare. Però dico sinceramente la verità, quando ho sentito appunto in casa di amici questo merlo che parlava con voce umana, insomma, ho provato un'emozione che perché non era come il pappagallo, straordinaria. Non era come il pappagallo che ha quella voce. No, questo merlo proprio aveva la voce. Si sostituisce, diciamo, sì, chiamava suo padrone Gianni, ma proprio come lo chiamaste voi, insomma, ecco. Così. Vabbè, allora ci fermiamo un attimo. Ok. Per un'altra canzone. Allora, la quarta canzone, quello che le donne non dicono, che è di Fiorella Mannoia. Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, o potrà arrivare a stare con noi. Tanto ci potrai trovare qui. caro Antonio, caro Tiziano, il tempo vola e non si arresta un'ora. Purtroppo. Siamo arrivati proprio ai saluti? Qui non abbiamo tempo purtroppo di fare altro, ci sarebbe da discutere così sulla primavera, su tutte le stagioni in modo straordinario. Sì, io ho tante, tante dobbiamo domande. Rimandare anche questa cosa di dover rimandare, però non è negativa perché ti riporta alla scansione della natura, eccetera. Quindi è fondamentale, è un appuntamento, diciamo. Ecco. Eh beh, sì. Tiziano, un saluto. Ti ringraziamo proprio di cuore. Anche da parte mia. E alla prossima. Grazie a voi per tutto. Io vorrei congedarmi dai nostri radioascoltatori con una piccola poesia che dice: niente passa per niente se te o vardi. Il mio augurio vardeo. Bravo, guardate Tiziano. Tutto. Grazie Tiziano. Grazie Tiziano. Caro Antonio, prossima volta mi raccomando arrivare in orario. Sarà fatto. Ecco. Salutiamo tutti. Saluta tu Antonio. Sì, un saluto cordiale alle nostre amiche e ai nostri amici e siate sereni. Allora, con te, con Tiziano e con il nostro regista Eddie Daici, auguro a tutti una buona notte. Ciao! Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.